il divorzio e la rottura del vincolo matrimoniale, sia per mutuo accordo, sia per decisione autoritaria di un tribunale religioso o civile. Conseguentemente, i coniugi riacquistano la libertà e possono, quindi, passare a nuove nozze. Esaminare il divorzio alla luce della parola di Dio non è facile. Quest'argomento esula completamente dal concetto biblico. La legislazione mosaica prevede, infatti, solo il ripudio. Il divorzio è un atto generalmente consensuale fra i due coniugi che determina la rottura del vincolo matrimoniale. Il ripudio, invece, implica un'azione unilaterale. Competeva, infatti, solo all'uomo mandar via la propria moglie. In molte Bibbie, nei passi di Matteo e di Marco, troviamo scritta la parola divorzio, ma questa traduzione è arbitraria. Infatti, in greco, la parola è apostasia, cioè colui che rifiuta, colui che ripudia. Parlare quindi di divorzio significa usare un termine improprio, secondo l'idea originale. In queste brevi riflessioni esamineremo cinque aspetti. 1, 2, 3, 4, 5. Le parti della Bibbia che trattano del ripudio. Qual era l'insegnamento della legge mosaica in caso di irregolarità sessuali? Se il matrimonio sia indissolubile. Che cosa affermò Gesù in merito al ripudio? Ciò che Paolo insegnò in relazione a due sposi che si separano. 1. Le parti della Bibbia che trattano del ripudio. Il testo che tratta del ripudio nella parola di Dio si trova nel libro del Deuteronomio al capitolo 24, i primi quattro versetti. Quando uno prende una donna e la sposa, se poi avviene che essa non gli è più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo dia in mano e la mandi via da casa sua. Se ella esce da casa sua e va e diviene moglie di un altro uomo, se quest'ultimo marito la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo dà in mano e la manda via da casa sua. O se quest'ultimo marito che l'aveva presa in moglie viene a morire, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che è stata contaminata, perché questo è un abominio agli occhi dell'Eterno, e tu non macchierai di peccato il paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in eredità. Una giusta costruzione grammaticale del passo mostra che la legge mosaica non prescrive affatto il ripudio. Il passo in questione non deve essere inteso ad incoraggiare o a consigliare i mariti a ripudiare le mogli. Nemmeno deve essere inteso nel senso che si autorizzi o si sancisca il ripudio. La legge stabilisce che, se un uomo ripudia sua moglie, deve darle la lettera di ripudio e che, se la donna ripudiata sposa un altro, il precedente marito non può in alcun modo riprenderla in moglie, poiché sarebbe un'abominazione agli occhi dell'Eterno. In altre parole, la forma usata indica l'esistenza di un provvedimento per una determinata evenienza, ma non definisce se una tal evenienza fosse giusta o no. È necessario distinguere tra la semplice tolleranza da una parte e l'approvazione o sanzione divina dall'altra. Ne sono un esempio le leggi relative agli schiavi. Dio ha dato delle leggi al riguardo, senza entrare in merito al loro valore morale. Non vi è nulla, quindi, nel brano del Deuteronomio che provi che il ripudio fosse approvato o disapprovato. 2. Qual era l'insegnamento della legge mosaica in caso di irregolarità sessuali? La legge giudaica non era solo un codice morale, ma anche civile. Come tale, essa affrontava varie problematiche in tutti i settori della vita dell'uomo, compreso il matrimonio. Ecco che cosa prevedeva la legge di Mosè in caso di trasgressioni nel campo sessuale. A. Per entrambi gli adulteri vi era la pena di morte, Levitico 20 e 10, Deuteronomio 22 e 22. D. Se una vergine era fidanzata e veniva violentata in città, ambedue dovevano essere messe a morte, Deuteronomio 22, 23 e 24. C. Se una vergine era fidanzata e veniva violentata nei campi, solo l'uomo doveva essere messo a morte, Deuteronomio 22, 25 e 27. D. Se una vergine non era fidanzata e veniva violentata, l'uomo era in obbligo di sposarla e poi non poteva più ripudiarla. Deuteronomio 22, 28, 29. E, se un uomo accusava sua moglie di infedeltà durante il periodo di fidanzamento, e se questo era vero, doveva essere lapidata, altrimenti l'uomo doveva tenerla per sempre. Deuteronomio 22, 13, 21. F. Se un marito sospettava il tradimento, vi era un rituale preciso. Numeri 5, 11, 31. Sulla base delle situazioni descritte, secondo la legge mosaica, la donna non poteva essere ripudiata per una trasgressione sessuale, perché in tal caso doveva essere lapidata. 3. Il matrimonio è indissolubile. Un giorno Gesù ammonì in occasione di una controversia sul matrimonio, quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Marco 10, 9. E bastata questa affermazione perché il vincolo matrimoniale sia ritenuto da molti indissolubile, cioè che non si può sciogliere. Infatti, Tommaso, il dottore universale del cattolicesimo, afferma che il matrimonio è l'unione maritale di un uomo e di una donna fra persone legittimate fatta per una consuetudine indissolubile di tutta la vita. Di conseguenza, tra i battezzati cattolici, il matrimonio orato, approvato, confermato e consumato, non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccettuata la morte. Prima di entrare in merito all'argomento, sono doverose alcune premesse. Gesù non ritiene il matrimonio un vincolo che non si possa sciogliere, cioè indissolubile. Egli stesso, infatti, prevede il ripudio, in caso di fornicazione. Matteo 5,32. Egli fece notare che Dio ha unito gli sposi, ma non ha parlato mai di indissolubilità. Che Dio unisca gli sposi è un'affermazione che deve essere compresa. Non è l'autorità religiosa ad unire gli sposi, ma l'autorità civile. Infatti, il matrimonio è un'istituzione civile, non religiosa. Due persone sono da considerarsi sposate quando abbiano adempiuto tre regole. Vivendo sotto lo stesso tetto, essendo riconosciute pubblicamente marito e moglie, avendo rapporti sessuali. Se fosse solo il rapporto sessuale ad unire due persone davanti a Dio, una prostituta avrebbe un infinito numero di mariti. Se fosse solo la convivenza, una nazione avrebbe difficoltà a riconoscere coloro che sono sposati. È vero che il matrimonio è stato istituito da Dio, ma non per questo. Esso è da ritenersi un atto religioso. Altrimenti le pubbliche autorità, essendo anch'esse istituite da Dio, e sovrano su ogni cosa, sarebbero da considerarsi relative all'ambito religioso. Inoltre, stabilendo il principio dell'indissolubilità del matrimonio su di una sola affermazione di Gesù, si potrebbe sostenere, allo stesso modo, il principio contrario, cioè la dissolubilità del matrimonio, basandosi su di un'altra sua dichiarazione, quando egli chiarì di essere venuto a mettere divisione, Luca 12, 49, 53. In effetti la conversione di un coniuge produce una divisione spirituale nel matrimonio. Questo fatto era talmente sentito dai primi cristiani da indurli ad esporre il loro problema a Paolo. Di questo tratteremo tra poco. È impossibile accettare l'indissolubilità del matrimonio, anche basandosi sulle regole che Dio diede nell'Antico Testamento. Quando un padrone dava a uno schiavo una moglie, quest'ultimo, dopo 7 anni, poteva andarsene, ma senza la moglie e gli eventuali figli nati durante il matrimonio. Esodo 21, 1 a 4. Un uomo che violentasse una ragazza non fidanzata non era in obbligo di sposarla, se il padre si fosse rifiutato di dargliela, Esodo 21, 16, 17. Se un uomo sposava una prigioniera di guerra, poteva mandarla via, qualora non le fosse più piaciuta. Deuteronomio 21, 10, 14. Lo stesso testo del Deuteronomio, capitolo 24, ove Dio concede di mandare via la moglie, conferma che l'unione matrimoniale non sia indissolubile. Dio non proibisce dunque ogni tipo di ripudio. Lui stesso dice di aver ripudiato la ribelle Israele a motivo di tutti i suoi adulteri e le ha dato il libello del ripudio. Geremia 3, 8. Nella legge di Dio, Troviamo solo due casi nei quali il marito non possa mandare via la moglie per nessun motivo. Colui che avesse diffamato, Deuteronomio 22 e 19, o disonorata una vergine, Deuteronomio 22 e 29. Da notare che anche queste due motivazioni non sono dovute all'indissolubilità del matrimonio, ma sono di natura morale. 4. Che cosa affermò Gesù in merito al ripudio? Abbiamo compreso che Gesù non poteva parlare di divorzio, perché questa soluzione non esisteva, secondo la legge giudaica. Egli, da giudeo, ha parlato quindi solo di ripudio. Da un'attenta lettura dei testi di Matteo 5, 31, 32, 19, 3 a 9 e di Marco 10, 1, 12, notiamo che l'insegnamento di Gesù non era tanto intorno al ripudio quanto invece all'adulterio. Egli non si sofferma a considerare se il ripudio sia giusto o sbagliato, se l'uomo possa, debba o pecchi nel mandare via la moglie. Al contrario, il suo intento è quello di avvertire gli ascoltatori che mandare via la moglie, salvo l'unica eccezione della fornicazione, significava esporla ad essere adultera, e chi l'avesse sposata avrebbe egli stesso commesso adulterio. È importante sottolineare che l'unica eccezione per la quale, secondo Gesù, la moglie non diventasse adultera era la fornicazione. L'enfasi di questa eccettuazione è infatti posta sul fatto che il marito non può ripudiare la moglie per nessun'altra ragione, e quell'unica eccezione ad evidenziare l'illegittimità di qualsiasi altra ragione, come, per esempio, se la moglie non vuole aver figli, se russa, o se il suo alito è sgradevole. Rimane l'importante interrogativo. Cosa intendesse Gesù con il termine fornicazione? Nel Nuovo Testamento la parola fornicazione, porneia, è usata a volte come sinonimo di adulterio. Mocheia, altre volte, questa è distinta da esso, 1 Corinzi 6, 9, Ebrei 13, 4, Galati 5 e 19, per cui è difficile darle un significato preciso. In greco, la parola fornicazione include l'idea di prostituzione. Omosessualità, di impudicizia, si riferisce ad una pratica sessuale irregolare e continua, come è narrato riguardo ai figli di Eli, 1 Samuele 3, 22, più che ad una caduta, come fu per esempio nel caso di Davide, con Bathsheba, la moglie di Uria, lo itteo. Paolo usa questa parola per definire la situazione di colui che si era preso la moglie di suo padre, 1 Corinzi 5, 1, e per colui che si unisce a una prostituta, 1 Corinzi 6, 15, 18. La stessa parola è usata nella lettera, mandata dagli apostoli e anziani nel concilio di Gerusalemme, per designare, molto probabilmente, i matrimoni illeciti. Secondo la legge, Levitico 18, 6, 18, nei quali si vietava il matrimonio tra una larga schiera di consanguinei. Queste considerazioni ci inducono a comprendere che gli scrittori biblici, con la parola adulterio, qualificano un tipo del peccato di fornicazione e che la fornicazione non è mai limitata a persone non sposate. Per questa ragione, mi è difficile collocare la fornicazione in un solo ambito. Per esempio, i rapporti prematrimoniali. Per ogni trasgressione sessuale era prevista, infatti, una pena precisa. Inoltre, non mi pare possibile individuare l'irregolarità sessuale nell'ambito dell'adulterio. Se il marito esporla, la moglie ripudiata era già adultera, come poteva contemporaneamente ad una colpa nella quale lei fosse già caduta. Una cosa è certa. L'unica ragione per cui un marito potesse mandare via la moglie era un'irregolarità sessuale grave, quale, ad esempio, dare il proprio corpo ad altri con carattere di continuità. In definitiva, la fornicazione, soprattutto, è avere regolarmente rapporti sessuali con un altro partner. In questo caso, il coniuge è libero e svincolato dal vincolo matrimoniale. Sotto quest'ottica, molti matrimoni d'oggi, rotti e poi ricreati sotto altre motivazioni, sono da considerarsi illegittimi per Gesù. Il cristiano che desideri compiere la volontà di Dio deve rispettare l'unica eccezione posta da Gesù, se non vuole commettere adulterio. 5. Ciò che Paolo insegnò in relazione a problemi matrimoniali. In 1 Corinzi, capitolo 7, l'apostolo Paolo non tratta del ripudio, egli risponde però ad alcune domande intorno al matrimonio poste da credenti di quella città. Forse proprio per questo motivo, gli argomenti trattati nel suddetto capitolo sono i più inerenti al nostro tema. Per brevità, ricordiamo che il punto di divergenza degli studiosi è la seguente frase. Però, se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare assieme. La versione Luzzi traduce: in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati. Nella versione della Nuova Diodati si legge: in tal caso il fratello o la sorella non sono obbligati. Una versione interlineare dal greco rende: se poi il non credente vuol separarsi, si separi. Non è stato fatto schiavo il fratello o la sorella. Queste versioni portano alla conclusione che il credente, in caso d'abbandono da parte del non credente, sia libero per quanto riguarda il vincolo matrimoniale e quindi possa risposarsi, purché sia nel Signore, versetto 39. È importante sottolineare che debba essere il non credente ad abbandonare il tetto coniugale e non viceversa, altrimenti il credente commetterebbe adulterio. E in caso che gli sposi siano entrambi credenti e non riescano a vivere sotto lo stesso tetto, l'apostolo scrive: ma i coniugi ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Quindi, Paolo vede la possibilità che una coppia di sposi cristiani, che non si accetti più, si separi, ma senza poi contrarre altro matrimonio, perché la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, 1 Corinzi 7:39. Possiamo riassumere queste riflessioni nel seguente modo. A. Il matrimonio è stato istituito da Dio. Deve essere assunto quale un impegno solenne, che duri fino alla morte ma non in qualità di vincolo indissolubile. In caso d'adulterio, nell'Antico Testamento la separazione avveniva in modo cruento, ma Gesù pone termine al vincolo matrimoniale in modo incruento. B. Il ripudio, cioè il rifiuto del proprio coniuge e del vincolo matrimoniale, è secondo il volere di Dio. Il famoso testo di Malachia 2:16 citando: poiché l'Eterno, il Dio di Israele, dice che egli odia il divorzio e chi copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti, contiene alcune carenze di traduzione. Altre versioni, tra le quali la Bibbia Vulgata, la Nardoni, nel Targum, nella King James e nella Bibbia di Giovanni Diodati, leggiamo: se egli odia, la mandi via. Ecco il testo teresteso della Bibbia tradotta da Giovanni Diodati. Che seppur l'odia, rimandila, ha detto il Signore, il Dio di Israele. Il senso è che se un uomo fosse arrivato ad odiare la propria moglie, avrebbe dovuto almeno ripudiare legalmente da lei, darle il certificato di ripudio, rifiuto, per offrirle la possibilità di risposarsi. È difficile sostenere la non liceità del ripudio basandosi solo sull'unico versetto di Malachia, tra l'altro tradotto in modo inadeguato. C. Il rifiuto del vincolo matrimoniale può essere espresso da un coniuge in caso di fornicazione. Qualora un coniuge scoprisse che il partner abbia o abbia avuto relazioni sessuali con altri, ha il diritto di sciogliere il patto matrimoniale. D. Qualora due sposi credenti non riescano più a convivere sotto lo stesso tetto, può esservi separazione nell'attesa di una riconciliazione. E se il coniuge non credente lascia il tetto coniugale, il vincolo matrimoniale è spezzato e il credente è libero di risposarsi, purché con un altro credente. Condannare per sempre il coniuge abbandonato alla solitudine è disumano. Queste conclusioni sono un pugno infierito allo stomaco della nostra emotività e sentimentalismo. Se ciò che ci spinge al matrimonio sono per lo più i nostri sentimenti, ciò che lo unisce è un atto di volontà e di fedeltà ad un impegno che si è preso. A volte ciò può costare caro, soprattutto quando si scopre che il partner non corrisponde alle nostre esigenze. Ma se non vi siano situazioni disumane, come ad esempio una donna che sia sistematicamente picchiata dal marito, o che questo non sostenga la famiglia, o che un partner subisca violenze sessuali, o che sia sistematicamente trascurato nell'ambito sessuale, o in caso di pazzia di uno dei partner, è difficile impugnare il principio che il matrimonio sia un impegno solenne, che dura fino alla morte. Questo, in relazione all'innegabile fatto che la legge di Dio sia stata fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Se dopo queste riflessioni hai la stessa reazione dei discepoli di Gesù e pensi, se tale è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie non conviene sposarsi, ti sei reso conto della serietà che ha l'impegno del matrimonio. Per questo Gesù disse, non tutti sono capaci di comprendere questo parlare, ma è per coloro ai quali è stato dato. Matteo 19, 10-11, traduzione interlineare. I cristiani, ai quali si è dato di comprendere che il divorzio non è ammesso se non in caso di fornicazione, dell'abbandono del tetto coniugale e in casi disumani, faranno la volontà di Dio sopra ad ogni cosa, anche riguardo al divorzio. Dicembre 2002. Contributi. Matrimonio e famiglia. Edizioni GBUD E-Block. Desiderio e tenerezza. Claudiana Eric Fuchs. Eliero.